Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. E benvenuti anche questa domenica su Radio Città del Capo per Rotte Sonore. Oggi abbiamo con noi in studio due ragazzi che vengono dal Gambia e dalla Casa Mans, cioè dal Senegal. E benvenuto Babe. Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città del Capo, sono più o meno le 14.30. Sì, lo ricordiamo, questa è una trasmissione registrata negli studi di Radio Città del Capo e va in onda tutte le domeniche pomeriggio alle 14.30. Siamo, credo, alla decima puntata, ma non le contiamo più, dai, basta con questi canoni occidentali di sempre contare, no? Per me va bene, anche perché non me lo ricordo neanche io. Però presentiamo i nostri ospiti e chiediamo loro cosa hanno portato. Io mi chiamo Elias Diafune, vengo dal Senegal. A Casa Mas, mi chiamo Elias Diafune. Ciao Elias. Ciao. Mi chiamo Karamo, vengo dal Gambia di Bergamo. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao Karamo, ciao sì. Elias. Ciao. Allora, cosa ci avete portato? Chi è che vuole cominciare può cominciare, ok? Se volete sì. Potete parlare in italiano, se vi sentite più a vostro agio potete parlare in mandinga oppure in inglese. Diciamo che qua ci aiutiamo, ci sono vari livelli di mediazione. Sì, sì. Ce la possiamo fare. Sì, sì. Ok. Condono che la mobile la condona. Nabi luna nata radio to jando radio olomu nata testo la comsa ngam wola prepare na comsa ka yetani ka fobele comsa ni misi ko ay mine fois ay mine fois ay mine tradi comsa nga tradi ani na kona sa misi ko mi fo nga tradi na kona. Yeah, he said that he started, first of all we are greeting everyone in the name of them, and you know we are here to translate some music that you know they sing in our local language, so we are going to translate the music to you know, to people, you know, who are listening to the music, to the radio. Yeah. Ok. Ci avete portato un po' di musica nella vostra lingua e proviamo a tradurla per i nostri ascoltatori, quindi ok. Sì. Let's play. Alaykum salam Musa mbatatale ni bata sino la kotenka bantale ferem ni bata sino. Jali madi brikam boyo bi dunya da bi falante dunya wala if you on the beat. Ganyina lela nan dun de jam falanna itele wulu na itele na fengo betina manju tuila na inene mambalana na duta fomo vebo taida male ka fonye na itele wulu eji kabeto dinna ninga kuja oke ikonye fata nyina na sula fengol na ya be dinna enin kano mi itana fonka funyol nyaka bonna wata doye dunde nite te manna nelte sonna kanyim fili no mi mfil dol nene talon na nga baljele mili e dimol fay dol be ta konna dol be bulo kosile talie wolbe donna dol kabata min taki dingola kuola wonene telonna isa dunia la dunia ka ba mane de sanna anin done ne de kanna ndaji ko ne ne tabanna wala na nike kana o pisalta ka wura ka bo wena Nalakano, ah, ya fanda basi kono faji koni ntesito lafta ke la dunya le diandi bulu ko kosito awana bayu cars ama jala motol gad basiru jawara dreams ka kodo sam ye kolosito wala kambula nyin dunya be mi daro la ko nyamato sal yalla ne munan nan kanyabi bitol kam ko kon koto musico ka bilo jo musico ka domandi modum posoto motivational lat na fam futata nyin lebuloto nalo na fosti jati su ko no karam bungoto afolo ne ko fara e hakilo ken sondo moto anene mam batandi barandi wala ki jafaranda telen karandi femo lay mu kamil karandi karam bu moto ni nga kuke la yam famma na kana kam famma will ever stay true to you nda jam facility le kam nga ni mon sol min ke kono to nga duno min lay kunto e dimi nga min ma tinto ni kam fata se ponto Atemiye kanu biri mangunuma biri ngunuma ta anim biri tamata Sai ko ka burle kanyine bala Ah munai tani la titaro be mam sanke bay Ningalon no mokalon no Wata kanye batu fae fa yana animisa Mama mama ni njalo nyina fo ko mo si bama jono nyadile c'est parce que baka bata diwe nyami baka bata diwe nyami mo si bama jono nyadile il a vio kono c'est parce que ba akamin kata wulu diwe adamone alo c'est menen kafni mo fana sola expliquer en vengo anglais la demande. That's what this singer is talking about. How can we pay our mom? In Italiano, say come possiamo ripagare la nostra mamma. Grazie, è grazie. Una bellissima traduzione dal mandinga all'inglese e sì. Fino ad arrivare all'italiano e sì. Diciamo che non c'è bisogno di dire niente. No, no, già due livelli di traduzione sono abbastanza. Ma è bellissimo, è bellissimo, sì. Sarebbe bello che foste un po' voi ascoltatori invece che ascoltare basta foste qua. Ma va bene, quindi provo io a dire in Wolof, Bennagio Nolandia di, come possiamo ripagare la nostra mamma. Sì. Quando è stata cantata questa canzone? Canzone? When this song? Anni fa. No. Not long ago, he sang this song, yeah. Questa canzone è abbastanza recente. Chi è la cantante? Cantante, ST Jalim and Jalimadi. Okay. Jalimadi sono canzone. Ok, e la cantante è gambiana o senegalese? Gambiana. Ok, grazie. E di cosa parla quindi questa canzone? What about? Ninjalo akanyina fo ako wulula konsa wulo dimentale do na karola se parce que wulula di manyan na diamula ba manyan le diamula wulula mo wulula ye di manyan na diamula wulula mo di manyan wulula manyan na diamula di mo di ya soso ya he said that the singer is talking of that giving birth to young people is very painful, so a child should not stand that his own child should not allow mommies to get angry with us because you know it's very painful, very painful, you know. Yeah. Wow, I also yendo. Aspetta, perché magari questa canzone parla di quanto è di quanto crea sofferenza, no? Per i figli dover sempre cercare anche di ripagare la propria mamma per proprio in virtù del fatto che fin dalla gravidanza, insomma, c'è molta sofferenza da parte della mamma. Poi? Se posso dire, quando io mi raulo di una, ulo di mentale. Ulo di mentale, di un'età, in età normale, ma è stata fuori futata, è stata fuori futata, sangue stanni in sei. E andà e la ulula come si è la cala battaggio lo gio. Ulula buca di una battaggio lo banno gio le gnagna. A buca battaggio lo gio no. Ma a se a nafa qua, a se pratica che te gnagna, ai battami in chia e coma. Di un yanta lo macato la cao macato by di bye. He said, if you went up to a child get his adolescent age, you should start a practice how to start. You start how to pay your moms because, you know, you can't pay your mom fully. Yeah, we can't pay our mom fully, you know, because the pain they get on us is too much. We can't pay it all, but we can know them. We can know them. They have suffered on us. We can know them. We cannot pay them, but we can give them some, you know, we can give them some reward for them because, you know, what they suffer on us is too a lot. So quando i bambini diventano adulti si domandano come possono provare a ripagare tutta la sofferenza che comunque si è creata dalla nascita e nella crescita fino all'età adulta, no? Quindi cioè, ci si chiede e si arriva, no, a capire che forse qualcosa lo possiamo fare anche se non possiamo completamente ripagare questa sofferenza. Se faccio che di un bai batami no ulu di un ulu di un kama ne ulu di un che tenya nya nima bulo muta nima fana muta mi ya longo so bia silolom ni mol ke yo nya ma silo kan fu fato ke ye comme ça ni bedami nda mantala ku muta kan ah e ma mantala ku muta ka bedami to ti alon ko e mental e che teniamo ogni suo con ogni niente che la responsabilità di capitare da immenda con ogni niente ulula abidami ogni niente ti fanno agenken la leyelo ulula all'inna plazo se parte che non hai agi e che tal siloto mi allonga a mambetiare ogni doli e giore che ha fatto con cardi una mignente o da mandamma ulula a cardimini anna umundo nai umuere a cardimini. Yeah, you say that when you started up to you get your adolescent age, you should know that, you know, whatever you say, you do, whatever you are, people will start blaming your mom. They will say, you see, when you are like, whether you are bad or good, when you are bad, they will say, this is the woman, his mother was like this. So all those will be on his mom. Your mommy will not feel happy with that. So we should not allow our mommies to feel angry with us. We should always be patient to them. You know, and know them. They have suffered on us. Know that they have suffered on us. Although we cannot pay them, but we let us know that they have suffered on us. And when we get to our adolescent age, we should started, you know, doing some things for them. You know, it's not easy for whatever the mom do to his child. It's not easy for a child to bear it out. But let us know. And then whenever they get angry with us, even they don't even open their mouth to curse us, it will not be a reward for us. It won't be good for us, for our future, you know. No matter how a child like his future, is behind your mom. Your mommy like your future more than yours. So as far as he give you bath and take care of you, he like your future before you. Tua mamma conosce il tuo futuro prima ancora di te, forse perché proprio ti ha generato. E quindi c'è questo continuo scambio, no, tra la volontà di ripagare una sofferenza che comunque c'è stata e c'è e la come dire il crescere e il fare i conti con questa sofferenza e il fare i conti anche con gli altri, perché comunque in qualsiasi modo tu ti comporti purtroppo tua madre potrebbe venir come dire offesa, no? E infatti volevo fare una domanda a Elagi, ma anche a Karam, no? I have a question, no? It's very common, no? That yeah. If someone want to insult you, yeah. It takes your mom as yeah. the main yeah. insult, like insult you. So it's very very painful. Yeah, to hear probably. About him. Is the I suppose the the worst, no? Yeah, the yeah. worst offense yeah, yeah, it offend. That someone can pose to you, isn't it? Yeah, it's something true, you know. We should avoid all those things because they are not good for us. Someone can open his mouth and insult your mom while you are the same age with the person, or the person is older than you. You know, it's very painful, really. It's very painful for someone to open his mouth and insult your mom. The softness that your mom gets on you, that is not good for you, yourself, your future. It's not good for your future. People to be insulting your mother or to be blaming your mother for such things, while it's because of you, we should avoid all of those things. Sì, è l'offesa più grande che qualcuno possa dare, perché c'è proprio quello contro cui... crescendo ci impegniamo proprio a evitare, no? Perché ci impegniamo a ripagare una sofferenza, e se qualcuno osa insultare, no? la mamma e di conseguenza tutta la sofferenza che lei ha subito e che non è riuscita nemmeno a, come dire, a farci pari, farci conti pari, beh, è un qualcosa che veramente... fa malissimo alla persona, insomma. Peggio che un insulto a se stessi, no? Vabbè. Adesso cosa abbiamo? The next track? The next track is... Le Prochain? Is this Johnny... The next Johnny. Track is Broke. Broke? Yeah. Johnny Libya. Yeah, Johnny Libya. The journey we all Johnny Libya wala atna wala wala nyinte ko comme ça silo kabo mon mil kan silo mutana kabona ya ila bankol kan nan ki wana anni Libya lana. The journey is talking of people who, you know, they leave their country through Libya to come to Europe, you know, this illegal migration. It's a journey through Libya. Yeah, through Libya to it Europe here. To reach Europe. To cross the Mediterranean Sea. He's talking of the journey. Okay. Questa canzone parla del viaggio per arrivare fino qua, passando per la fatidica Libia. Mujella fate yemen yale ba ma be dikri da male jang. Jelle faade je min yale fama be digri da male jang. Mo jelle faade je min yale dodo foman din soda jang. Mine fong yang hamendi nina pa ko menga rock. Birata da forena me fulo dundi ya kuren. Bumbal loda musabal nada. Musubal nada. Ngana ngayen fong le chain sign. Purkata foren. Dat ambasia. Ambasi felenti ngayen reject. Akate mendi tek ninda tarage mesira na tek. Akate mendi tek ninda tarage ntina na kurei. But 2 years later, nasida domo yi kafaye bakwe. Nana fudo le chika, napako fone ada bako chika. Ntele tamata ntamata, bro, ntata le fomali. Kabili mfreta mali, revelo le felenti ngoli ya muda. Nada mandi mbembe mbulu bro, unko, hewa liyota. Nina pako membe siloka mfango, ikafo meye boy. Woye paso jonye, ay paso jonye le saye mfo nizer. Kabili mfreta nizer, bro. Tilobe kandiring, mobe siaring, domorol be sering, jobol fongal be sering, ibebe kuyaring. Moje la fate je men yale bama be tikri da male jang. Moje la fate je men yale fama be tikri da male jang. Moje la fate je men yale dodo foman din soda jang. Sumo teta, benda jira wo fang la bro, modo fang fantang kalta. same from Malam Bemakala boy. There's no call, there's no vibe, I don't know what's up. Malam Bemero call and Yam and Fanga situation no explain. Because Napako Hen and Fango, Atabulo Katita, Napako Rofana Hen and Dari Jana, or Fango Banta, Bro, sign the phone confused and a sign. Malam Bemakala, Valentin Desaro got a sign, bro. Almost for 4 days, Manji Soro, Mando Morsoro, Malam Bemakala, but in Valentin sign, Taman Tamanta Bro, Tata for Barada. Rabbis Mari Yok, Rabbis Mari Yok, when Dadle, Malala Yok, covering a lad, boy, see what another your hock, see what anything I fit in your young, never young ten year, Yoko Yoko, broken poor, Munaya the Sidan, Fetamar and Debemo Domala Son, Gastati Yanda, Nimbebo Domala Bronco, Gastati Mola, Bartawan Yana Frit, Bro, Nabeke, Boboro Lambo, Langamol, the Fonga Bebula Kunkono, Frate Mafango, Bro, Mulate. Salu, Mamma Salu fell in this time from a bro at a confused star. The Bria confused stuff could walk on a boil, boil, come, Bualdi. Say Mamma Salu fell in the Fango. I'm Rojica, Cabria Murojica, I'm Rojica. I cover Moljamla, but couldn't go on a sign fell in the Fango. The Maluanida, Molbe knows about a Bajamla Bodia, Momanda Dampu, but in Bajabo Yama boy, couldn't fell in the Yelamana, but solo Kili. Bro, let the Kulabena, but it you and Pusta, you and Pusna, you can Pusna, but what a cool. Of my life a Tiringa. Questo era Brock, un cantante gambiano, Brocky, scusa, e un cantante gambiano che ci ricordava molto il classico toasting dei cantanti giamaicani, ma la base questa volta non era una base di musica reggae tradizionale, no, era una base di musica del Gambia. I'm explaining to our listeners, what I said, told you before, with the, when the microphone were off. This is not traditional reggae music, but instead is Gambian music. Yeah. Am I right? Yeah, it's Gambian music. Gambian is traditional. It's traditional Gambian music. Traditional Gambian music. But the vocal style is like toasting. Yeah. It's like toasting. Yeah. Is it common in Gambia? It's common. It's common in Gambia. It's common. In parties, on venues. Yeah. Per i profani, cosa significa toasting? Toasting è appunto è il modo di cantare, che non è hip hop, tipico del reggae giamaicano, quando si ha dei grandi sound system, quindi musica con un DJ che mixa, e l'MC, il master of ceremony, si mette a, non è proprio a rappare, comunque a declamare, come avete sentito in questo caso, con una voce abbastanza molto maschile, un po' roca, poco melodica, che ricorda molto poi l'hip hop, anzi molto dell'hip hop ha preso dal toasting giamaicano. Ecco, no, perché a me sembrava proprio, nella mia ignoranza, sembrava rap, hip hop, chiedevo ma non capivo. Ecco, adesso sì, diciamo che ci siamo. Ci abbiamo provato, neanche io sono un esperto di reggae comunque. E ora, next song? The next song. Prochaine. Music. Non ce ne vogliono i nostri ascoltatori del mio pessimo francese e del mio malconcio inglese, comunque poi rimediamo col nostro italiano meraviglioso. Italiano scolgio humble lover. Non-political. No matter what you do, I see I'm blind and here and deaf. I'm an humble African passing through Babylon. I'm an humble African. Trouble no one. Say I'm an humble African. Simple fingers that I have, they were not made to pinch nor tear, you hear, but to move in deeds of kindness, you see, and to fall into thoughts of prayer to help my brother pray for the betterment of his life, yeah. Oh yeah. It's better to have a friend than to need one. It's better to find a friend than to be in need. Lift up your brother, don't you put him down. One and wash the other, both go and pack it home. I'm a humble African, I was born to love my brother. I'm a humble African, united I must be. I'm a humble African, no matter what they say, I'm a humble African. And to every time I speak for my justice, yet someone always to name me disagreeable still. Chasing one another without humanity. I pray the day will come that we all share what we have and show the people of the love that we have to give. Let them know I'm an humble African. Nothing but unity inside. I'm an humble African. Just stand for us all, a humble African. Let me beat my drum in a Babylon and a humble Africa. Yeah, you know who I am, a humble African. Humble African di Culture, che è un cantante giamaicano. No? Yeah, giamaicano. Ah, guarda lì. No, yeah. But yes, humble, what does it mean? Because it's a word that I suppose has many meanings. Yeah. It depends on the feeling, the way you have, isn't it? Yeah, it depends on the way you use it. You want to mean. Ho appena chiesto ai ragazzi cosa significa humble, perché è una parola che ha tanti significati a seconda di come, diciamo, di come la si usa, ma anche di quello che dei valori che ogni persona ha, no? Quindi per voi cosa significa? For you, what does it mean? What for the humble, which mean my people. Okay, so. La mia gente. Okay. Yeah. So what the song it speaks about? Yeah, he's talking about his way of life with peoples. You know, he said, I'm on this life. He don't trouble no one, you know. He don't trouble no one. So, well, his intention is to get no problem with no one. He don't want to get no problem with no one. Okay. You know. So, and then he's not part of these political affairs. With, you know, these political affairs, he don't like it in his life. Okay. So he said, and then he would like to say that to public that and show them that he's love his brother, his own brother. He love him and care him. So that's what he's talking about. And much and more. See, and then he said he need also unity in his life. I don't know whether you understand unity, which means peace. Okay. You need peace in his life, peace. Sì, è un po' no? la ricerca della pace attraverso l'unità col proprio popolo e quindi con i propri fratelli, a prescindere dal credo politico di cui assolutamente vuole uscire, perché crea soltanto guerre in Africa, lo sappiamo bene, giusto così, tanto per guardare la contemporaneità. Next one? Yeah, the next one. questa canzone di cosa parla? Come si intitola? Djaliba Kuyate. Ninom Djaliba Kuyate. Aspetta, Djaliba Kuyate. Djaliba Kuyate. Kuyate. Kuyate. Kuyate. Pardon. C'est the singer. C'est un chanteur de il vient de où? Gambia. Ah, un altro cantante gambiano. Stava cantando in che lingua stava cantando? Cantando Djaliba è un cantante, sì. Sì, canta in, chanta mandinka. A mandinka, sì. Perché mandinka è la lingua di Gambia, no? Gambia, yeah. Sì. Djaliba Kuyate. Ma ecco, tu viens du Senegal, della Casamance, no? Sì. E là-bas, vous parlez en mandinka. En mandinka, sì. Perché? Majorité Casamance sono dei mandinka. Perché il nostro amico arriva da un paese, quale il Senegal, dove ci sono più di una lingua parlata, quale appunto mandinka, wolof, eccetera. E in Casamance, che è una regione. Région de Seju. Seju, sì. C'est au sud, no? Région al de Seju, sud, oui, al di sud del Senegal, quindi al confine col Gambia. Sì, eh? Sì. Si parla mandinka. Tanta carne al fuoco, ma ormai abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. E visto che abbiamo tanta carne al fuoco, idea di fare un'altra puntata. E ci sentiamo domenica prossima e continuiamo su questa rotta. Ciao a tutti, alla prossima con sempre Karamo e Alagi. Alla prossima. Alla prossima, ciao.